me creato, idealizzato. Ora che trovo il mio essere annullato, sono disposto a riscattarmi dal passato anche nel vuoto. Trovo me stesso, mi riconosco e prendo atto dell'errore commesso. A camminare in equilibrio su quest'asse, temendo un passo falso. Ora che posso tornare indietro, mi rendo conto che la mia storia comincia adesso. Comincia adesso. Yeah. Ora che i miei sbagli, ora che colmano gli errori, colmano gli errori tuoi. Ora che dimentico che non capiresti mai. Ora che il tuo sguardo si fonde a mille simili. Ora che il tuo sguardo si fonde a mille simili.